Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo iniziato la grande, una canzone che apre il concerto di qualche anno fa, però bisogna essere sinceri. Adesso quest'anno sarà un po' diverso, vero Maurizio? Certamente, sarà un avvenimento, il ventunesimo anno quest'anno. Il ventunesimo anno. Buonasera da Blu Radio Veneto, questa è Blu Radio Sera, la fascia oraria dalle 21 alle 22.30 con il sottoscritto Agostino Spolore, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 con Maurizio Calzavara, fedele compagno di ogni trasmissione, con ovviamente lì live. Questa sera non abbiamo un live vero e proprio, ma abbiamo una presentazione di un live stupendo, un grandissimo evento che sarà a Padova il 3 dicembre presso il Palafabris, ma ne parleremo tra qualche istante. Innanzitutto i nostri dati tecnici, questa dicevo è Blu Radio Veneto, vi ricordo i nostri numeri telefonici 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms che vi auguro di mandare questa sera per salutare anche questi summertime, vi ricordo allora sono il 346 23 20 033. Vi ricordo la nostra pagina su Facebook, ne abbiamo due, una semplice come chiamata semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra invece è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico, cioè Alberto Prisco. Il nostro sito www.bluradioveneto.it, dove trovate tutte le informazioni inerenti agli eventi, cronaca, sport e quant'altro, e poi le recensioni sui vari artisti che si susseguono ogni sera qui nei live. E a questo punto non mi resta altro che presentare questi splendidi e carissimi personaggi, ma sono soprattutto cari amici, almeno per quanto mi riguarda, gli voglio un bene dell'anima, loro lo sanno, faccio parte anch'io della loro famiglia. E insomma, abbiamo qui una rappresentanza di una band padovana che ama, che fa il gospel in una maniera splendida e che lo ama tantissimo. Buonasera in Summertime, ciao a tutti, benvenuti. Ciao a tutti, ciao Agostino. Ciao Walter. Ci ritroviamo. Meno male. Abbiamo allora, prima vi presentiamo insomma. Allora, comunque Walter Ferrulli è il direttore del coro, dei Summertime Choir. Poi c'è Chiara Galana che è la presidentessa del coro, quindi abbiamo proprio la cupola, la vetta di questa band. E poi abbiamo il presidente, credo sia, vero Giampaolo? Sei presidente? No, ancora, ma se continuo così sicuramente faccio carriera. Giampaolo Peccolo, che è l'associazione Nuova Famiglia, che praticamente collabora, insomma, i Summertime collaborano con loro per questa, ma ci spiegherà poi tutto lui, insomma. Ciao Agostino. Ciao Giampaolo. Allora, volevo salutare il futuro ex presidente Ivo Babolin. Che magari ci sta ascoltando. No, caro Ivo, straordinario. Allora Walter, a distanza di un anno, parlo prima con te perché poi so che devi scappare, se non sbaglio, giusto? Sì, purtroppo sì. O per fortuna, non lo so, cioè, nel senso che purtroppo scappare via da qui, perché mi piacerebbe fare tutta la trasmissione, certo. Ma diciamo per fortuna abbiamo un'altra serata intensa di prove prima del concerto. Del debutto del 3 dicembre. Prima del concerto, esatto, del 3 dicembre. Questa sera vai con la band? Stasera andiamo di band e solisti. Quindi la restante parte del coro sono fuori, insomma, stasera. Sono all'ascolto. Stasera sì, li mando a spasso perché sono sottoposti a un tour de force abbastanza importante ultimamente, quindi devono anche riposare le voci. Quanto tempo è che state preparando questo concerto? Ma sai che è una preparazione continua la nostra, non è mai finalizzata a un solo concerto, quindi diciamo che ogni anno ci prepariamo per un progetto artistico, ci poniamo un obiettivo e cerchiamo nel corso dell'anno di raggiungerlo. Quindi quest'anno c'era l'obiettivo di cominciare, perché non potevamo fare tutto in un anno questo tipo di progetto, cioè di cominciare a pensare a un repertorio che sia nostro, originale, e quindi che finalmente si possa parlare di una musica dei Summertime e non una musica solo reinterpretata dai Summertime. Quindi questo era il nostro progetto, l'abbiamo cominciato, siamo contenti di dove siamo arrivati, e quindi il 3 dicembre cominceremo a presentare questo progetto. Poi magari l'anno prossimo vediamo se lo portiamo anche completamente a termine, che sarebbe davvero è un progetto difficile, allora sempre più difficile portare avanti musica assolutamente inedita, assolutamente propria, insomma. Sì, è bello comunque, sì, no? Perché è difficile, ma noi guardiamo proprio questo aspetto finalmente del non sentirci più legati a determinate cose, determinati simboli di no, siete voi e basta, questo è importante. Sì, scegliamo di metterci in gioco completamente. Certo. Ecco, quindi mettersi in gioco è una cosa giusta. Vediamo che succede, perché sai, poi chissà, perché è molto più facile sicuramente fare quello che tutti un po' tendono a fare, quindi o fare il gruppo cover o come facciamo noi, sicuramente reinterpretare, non rifare proprio le stesse cose, però è sicuramente molto più facile. E invece vedere di scrivere brani che siano tanto belli quanto quelli che fino adesso abbiamo reinterpretato, beh, insomma, questo dà una soddisfazione. E il direttore di un coro come si comporta in questo tratto, cioè il discorso di brani assolutamente vostri, un po' più complesso, perché un brano conosciuto la gente lo conosce, gli stessi partecipanti al coro, un brano non conosciuto come ci si comporta così, Walter? E come dicevo, ci si mette in gioco, bisogna che prima di tutto abbiamo noi il coraggio e anche la serenità di proporre dei brani che potrebbero non essere accolti con l'applauso trionfale sin dall'inizio, no? Perché poi quando cominci Somebody to Love sai già certo. Come cominci, sai già dove vai a finire, sai già che tutto andrà bene, qui no? Entri in ballo tu comunque e qui sì, e poi, poi un po' calco la mano, no? Come sapete, sì, in certe situazioni quando il pubblico è pronto per accettare di essere diretto, come cioè, dire. Ti confesso che tutti dicono no, però tutti si muovono poi. Sì, perché poi se non li faccio muovere si lamentano. Certo. Si lamentano. Tu, guarda, avreste dovuto sentire i commenti di alcune persone di una certa età, lo ricordo ancora, l'uscita da un teatro Verdi, quando io decisi quella sera di non fare animazione, tra virgolette. Beh, l'arrabbiatura, io mi ricordo, vennero da me e dicevano: ma lei non ha fatto questo concerto, lei non ha fatto alzare il pubblico. E dicevo, vabbè, insomma, non è che sia un obbligo, no, loro aspettano questo momento, chissà perché, forse si lasciano andare completamente, certo. Si sentono trasportati, si dimenticano delle quotidianità magari un po' tristi, chi lo sa, insomma, comunque certo è che è un momento di grande serenità e io sono convinto che sotto sotto si sentano sul palco assieme a noi, e questo è il motivo per il quale alla fine questo momento arriva, che io lo voglia o no, in qualche modo, tutti in piedi, tutti a ballare, tutti a cantare insieme a noi. Sai cosa, Walter, che io sai che sono di qua della barricata quando c'è il concerto e essendo in mezzo al pubblico mi accorgo che all'inizio sono un po' tutti così titubanti, ma che canzone sarà, cosa non sarà, sentiamo la prossima, poi sono talmente presi, ed ecco che qui è il bello della tua idea, diciamo, di far saltare tutti, di far alzare tutti, sta proprio in questo, cioè nel senso che loro si aspettano chissà che, poi tu li coinvolgi ed ecco che loro partono in una grande emozione viva e sono dentro voi, sono come se fossero voi con voi nel palco, insomma. Sì, tu vedi quanto è facile poi a un certo punto, tu che sei che vieni a vederci spesso, insomma, lo vedi quanto è facile a un certo punto coinvolgerli, no? Certo. Vedi che sembra arrivato proprio il momento giusto. A un certo punto, a tre quarti del concerto, tu vedi che le persone cominciano a muovere le gambe, esatto, in modo ritmico, quasi nervoso, e dici: beh, dai, potete alzarvi. Beh, comunque diciamo che è un susseguirsi di emozioni il vostro concerto. Grazie, sei come sempre gentilissimo. Perché io, ripeto, sono dall'altra parte, ma anche l'anno scorso, parliamo di quello dell'anno scorso, davanti a 4.000 persone con un C.C. Rogers straordinario, vedere la gente, vedere lui piangere prima di tutto e poi vedere la gente che piangeva o perlomeno con gli occhi lucidi è stata una cosa veramente fortissima. Vuoi un piccolo aneddoto? Dimmi. Te lo dovrebbe raccontare Sissi, ma me l'ha raccontata a fine concerto. Lui è abituato, ovviamente, così come noi, ad avere un pubblico che partecipa, che canta, che balla, che si alza in piedi. E invece si è trovato all'inizio, quando è entrato, un ostacolo visivo, perché lui notava in prima fila un signore con le braccia conserte, una espressione durissima, che lo guardava quasi a sfidarlo, come dire: tanto non mi emozioni neanche se ti impegni. E lui questa cosa l'ha presa come un fatto personale, quindi è stato anche un po' distratto. A un certo punto del secondo brano che ha cantato si è accorto che questo signore con questa espressione dura aveva una lacrima che gli scendeva sul viso e quindi era in qualche modo crollato, e allo stesso momento in cui ha visto questa lacrima è crollato anche Sissi, certo. E quindi ho dovuto quasi soccorrerlo, non so se ti ricordi quell'abbraccio dopo la fine del brano, piangeva, singhiozzava, sembrava un bambino. Certo. Sì, è stato molto, poi anche quando girava in mezzo al pubblico era veramente molto molto emozionato. Poi tra l'altro ti confesso, parlando proprio ancora di C.C. Rogers, che quando è venuto qui quella sera, che abbiamo poi parlato e che ha fatto il live qui da noi, mentre cantavo una canzone, ti giuro, io di tutti i live che ho fatto è stata la prima persona che ho visto che aveva lacrime, non parlo di occhi lucidi ma parlo di lacrime, proprio di lacrime, lui cantava con le lacrime agli occhi, è pazzesco ed è una forza della natura, poi è bravissimo, insomma. Sì, decisamente un artista straordinario. L'auspicio è di, abbiamo fatto 4.000, di fare 5.000, cosa dite, no? L'auspicio è quello? Beh, l'auspicio c'è sempre. Diciamo che quest'anno è una grande scommessa, è partita così, però diciamo che in qualche modo questa scommessa l'abbiamo già vinta nel momento in cui siamo arrivati così come oggi, ancora così uniti, così vicini, così tanto amici con Chiara, con Giampaolo, con tutti i ragazzi che stanno preparando questo concerto da mesi, con tutto lo staff di Nuova Famiglia. C'è una tale armonia che davvero, io non voglio essere banale, ma in fondo lo diciamo tra di noi da gennaio, quello che conta è questo viaggio, poi il concerto sarà una importantissima tappa finale, però questo viaggio è già fino ad oggi stato straordinario, quindi ne è già valsa la pena. Che siano 3.000, 3.500, 4.000, a questo punto importerà un pochino meno. Poi comunque sia, noi speriamo di vedere il palazzetto pieno, perché ci si diverte di più tutti quanti, no? Molto più bello cantare e ballare quando vedi che un palazzetto è pieno, ma mi pare di capire che così sarà. Bene, bene. Sta andando bene la prevendita, sì? Sì, direi di sì, direi sì, assolutamente sì. Di sì. Però per questi argomenti io lascio la parola. La parola a chi si sta occupando maggiormente, quindi Giampaolo e Chiara, che sono molto più aggiornati di me. Sì, siamo sì, aggiornati, ma io sono scaramantica, quindi non dirò niente delle vendite. Hai ragione, fai bene, fai bene. Tanto a questo punto devo tacere anch'io, però, perché no, tu puoi dire quello che vuoi, ma posso, io non apri la bocca. Non posso essere da meno, no, siamo molto contenti. E si ha la sensazione che ogni anno sia sempre più facile. Questo è il quarto anno che rinnoviamo la nostra avventura. È sempre di più un evento atteso, seguito anche da chi ci dà una mano come volontariato, come piccoli contributi, qualche sponsor. Ormai abbiamo veramente la sensazione di essere sempre più accompagnati dalla nostra città e non solo su quello che facciamo, e vederci così appunto seguiti è una bellissima soddisfazione. Beh, è quasi un evento per Padova il vostro concerto ormai, eh. Cioè, io infatti mi ero un po' arrabbiato con Walter o con chi per esso quella volta che ha deciso di fare il concerto a Mestre. Perché ho detto, non può, devi venire a Padova a fare il concerto. Ti ricordi, te l'ho detto anche? Eh sì, ma è stato per farci un po' desiderare, no? Certo. Che bello. Sei troppo forte, Walter. Allora, Giampaolo, ci spiega un attimino cos'è la vostra collaborazione, allora, questa associazione Nuova Famiglia? È un'associazione che nasce nel mondo del volontariato, che si occupa dei poveri, dei paesi poveri. È nata per iniziativa di alcune famiglie che avevano adottato dei bambini in Etiopia e che, avendo visto le realtà da cui venivano i loro figli, hanno deciso di mettersi assieme per aiutare quelli che non erano partiti, quelli che non erano diventati i loro figli, no? Le loro famiglie, i villaggi da cui questi bambini provenivano, e di aiutarli sia adottando a distanza più bambini possibili tra quelli che rimanevano lì e adottando anche i loro villaggi, le loro parrocchie, con tutti i bisogni, dalla scuola al pozzo, alla piccola o non più piccola struttura sanitaria. E da lì, appunto, ormai ben più di 20 anni fa, è partita la Nuova Famiglia, che è un'associazione che nasce attorno a tutti ciò che sono i bisogni del bambino. Dei paesi poveri, ecco. Ora siamo in veramente un bellissimo gruppo, tantissimi sono i volontari, qualche migliaio le adozioni a distanza che abbiamo realizzato e tanti begli eventi, ecco. Il concerto che da 4 anni i Summertime ci regalano, e noi ci fa veramente piacere con partecipare e organizzare insieme a loro, è quello che ci rende forse maggiormente esposti sulla nostra città, però è anche un momento di grande unità tra di noi e adesso che con i Summertime che stanno diventando proprio parte della nuova famiglia, questo, come diceva prima Walter, è veramente un momento che in cui stiamo veramente toccando questa quasi fusione tra i nostri mondi, quello musicale e quello solidale. Ed ecco, voglio anche dire una cosa, Agostino. In questi stessi giorni ci siamo impegnati su un'altra attività. In Comune di Padova c'è una mostra fotografica della nuova famiglia che abbiamo voluto proprio fare in questi 15 giorni prima del concerto, con una mostra fotografica dei volti dell'Etiopia, fotografie fatte lì dove noi siamo presenti, che servono anche per chi nella nostra città voglia vedere, al di là della musica o di quel piccolo spot che magari possiamo fare su di noi durante il concerto, ecco, voglio vedere un pochino di più le immagini. Si chiama Occhi Nuovi la mostra, proprio perché è un modo di guardare al mondo con gli occhi dell'Africa, e per cui invito tutti, ecco, è aperta praticamente tutto il giorno al Giardino Pensile, al primo piano di Palazzo Moroni, ringrazio anche il Comune per questa disponibilità, ad andarla a visitare. Sai che questo non lo sapevo, Giampaolo? Cioè, mi giunge proprio nuovissima questa. Sì, insomma, si vuole essere offrire un evento, ma offrire anche parallelamente un'occasione per conoscere, perché per noi non è tanto il risultato in termini di pubblico, anche con quello che riusciremo a raccogliere per le nostre attività, sai, è anche quello di portare delle persone a conoscere che di là del mare c'è un mondo, ecco, da conoscere e da cui c'è anche molto da imparare. Da quei volti, di quelle foto, io veramente trago sempre un oceano di serenità, ecco, certo. Che forse a noi ci manca e che ecco, questo è un punto, per esempio, sul quale loro insegnano sicuramente a noi. Certo. Facciamo un break con una canzone, facciamo un omaggio, abbiamo il direttore del coro, dobbiamo fare un omaggio a lui stasera, visto che l'ha scritta lui questa canzone, vero Walter che l'hai scritta tu? Però di cosa parli? Wait for a light. E allora sì, e allora, confermo. Ci ascoltiamo, poi ci racconti un po', va bene? Sì, va bene, grazie. This is not just a concert, it's a little journey down a pathway of light. Which is always and only energy. So let us repeat our welcome to you, brothers and sisters. Thank you for placing yourselves in our hands. Let yourselves have a good journey. We'll be right back. that's right, you've guessed it. Summertime is back. Well, you know the funky beat to your trouble step. I am a DJ, I'm doing it again, making sure you know who's number one in England. Well, I'm on the mic right now. Check it. Everybody, party people, just watching me as I rock out to MIC. I'm a DJ, rock is deliciously. Keep going to it, keep going. I never ever do what the I am knowing. Rocking on to the break of dawn. No, you don't know, I'm a good can't be going like. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, ci racconti questa canzone, come ti è venuta? La sai la mia teoria, no? Sui brani originali. No, sai che non lo ricordo. Io non li riconosco come miei. Ah, ecco. No, no, cioè me lo dicono, me ne accorgo perché c'è scritto che l'ho fatto io, però... Scherzi a parte, davvero, dopo che hai composto un brano, non so se questo capita a tutti, a me però capita, e dopo un po' riconosco quel brano, sì, è potenzialmente un brano e basta. Sì, è un brano di tutti, sinceramente, tutti, perché poi, anzi, questa è la bellezza dello scrivere cose personalmente, diventano di tutti. Poi c'è questa complicazione terribile del diritto d'autore, ma questa sì, ce la siamo inventati noi e non serve a molto, onestamente. Oddio, per carità, grande rispetto per chi comunque, caspita, io sono un dilettante, c'è chi da professionista vive e fa questo mestiere, quindi ovviamente è bene che le proprie cose siano tutelate, però diciamo, parlando molto più astrattamente, è indubbio che qualsiasi cosa che abbia a che fare con l'arte nel momento in cui nasce è destinata a essere di tutti se è bella, no? E quindi questa è la più grande soddisfazione. Questo Wait for Light è un brano che ho scritto tantissimo tempo fa, tantissimo. Prima, durante la pausa, raccontavo e avevo 26 anni, mi sembra veramente una vita lontanissima, però è stato un brano fondamentale, ha segnato una svolta per questo gruppo, ha segnato una svolta di genere musicale, quindi è un brano che ricordo molto volentieri e lo ripeto perché continua a funzionare. Quindi un'accelerazione, visto che apri la tratta, come si dice, veloce del concerto, no? Sì, è l'accelerazione del nostro treno, da lì lo facciamo accelerare e la gente comincia a muoversi e a ballare. Sì. Giustamente. Tu dicevi che nei brani originali non c'è solamente la matrice funky soul, ma potrebbe anche ampliare il discorso al pop rock. Sì, di sicuro, questo di sicuro, perché ce ne stiamo accorgendo anche con i ragazzi della band quando arrangiamo i brani, che stiamo pian piano tendendo a spaziare verso mondi ancora più larghi, e devo dire che ci troviamo a nostro agio. Quindi quando abbiamo cominciato a esplorare il pop rock, così per piccoli accenni ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ma sai che non è male, che funziona il coro anche con queste cose. D'altra parte, voglio dire, i Queen hanno insegnato qualcosa, per cui indubbiamente potremmo esplorare anche mondi nuovi. Ci allarga molto la visuale. Non è semplice fare una canzone pop, qualche volta è ben più difficile fare una canzone rock, secondo me. Me lo dicono, tu sei un esperto nel campo, potresti sì o no confermare il discorso. Sì, ma sai che alla fine non è che tu governi il momento creativo, quindi chissà cosa potrà nascere. È capitato fino adesso che abbia vissuto magari un po' di più in un certo mondo musicale, però io sento che ci stiamo allargando e quindi la capacità creativa non ha più freni, non ha più limiti, e quindi è bello lasciarla andare. E se dovesse nascere un brano rock, ben venga. Se è bello, ben venga. Un bel assolo di solista non farebbe mica male alla ma salute. Sì, facciamo suonare Paolo Nimis la chitarra elettrica beh, quest'anno lo sentirete di più, ecco. Quest'anno ciao Paolo. Fate attenzione a Paolo Nimis quest'anno, perché lo scateniamo, certo. E al solito lui poi tra l'altro è molto contenuto, molto riservato anche. Sì, lui è assolutamente diligente. Paolo sa perfettamente che deve suonare, lui è ha la mia stessa visuale, poche note suonate al momento giusto, certo. Quest'anno gli ho chiesto di derogare a questa regola e in un paio di occasioni di accelerare, e vedrete che lo farà. Certo, è l'opposto di Francesco, vero? Beh, no, dai, cioè, diciamo dal punto di vista caratteriale, movimento sul palco, dicevo io. Assolutamente sì, assolutamente. Io mi ricordo, parlavi di esplorazione di vari sound, eccetera, eccetera, poc'anzi. Io mi ricordo quella volta alla Guizza, al concerto che avete. Io mi sono trovato davanti a una canzone degli Earth, Wind and Fire. che mi ha lasciato sbigottito, veramente splendida, in una veste tutta vostra, ma eccezionale. Mi è piaciuta un casino quella canzone là, veramente. Ci aiutano i ballerini, sai che da quando Etienne è entrato di diritto a far parte della nostra famiglia, e noi nella loro famiglia, nella sua famiglia, quindi anche qui un altro gruppo di artisti straordinari che si lega a noi. E da quando comunque collaboro con Etienne, certi brani non sono più per noi un tabù, certo. Perché cantarli e basta, a volte non basta, no? E scusate la ripetizione, ma quando Etienne comincia a ballare ti accorgi che puoi tranquillamente andare oltre il seminato. Beh, insomma, lui è un grande ballerino, poi, insomma, è a livelli mondiali, quindi insomma penso che... Se non lo fa lui, questo è, insomma, voglio dire. A proposito, se sta ascoltando lo saluto. E a proposito di saluti, vi porto i saluti di Serena. Ciao Serena. Ci sta ascoltando? Sì, sta ascoltando. Siete nel mio cuore, vi voglio bene, Summertime. Ti aspettiamo il 3. Sì, sì. Anche Chiara ti aspettiamo su. Anche la Chiara Lovisetto mi ha scritto. La Chiara ci sarà di sicuro. Serena la stiamo aspettando. Sì, ma viene Serena, viene Serena. Poi c'è Sissi, quindi figurati se non viene. Chiara, volevo chiederti una cosa a te, visto che hai parlato pochissimo stasera. Com'è il rapporto tra voi coriste e musicisti con il qui presente dittatore Walter? No. No, no, è un direttore, non dittatore, per fortuna. Anzi, a volte siamo anche troppo indisciplinati. Lui è troppo buono. Walter. Ma no, ma mi sgridano perché dicono che vorrebbero essere sgridati di più loro. Sì, io è dico, vero. Non capisco. Ma com'è il vostro rapporto comunque? Com'è, cioè... Ma guarda, secondo me migliora di anno in anno. Cioè, è ovvio che c'è un ricambio generazionale, qualcuno esce, qualcuno entra, ma il gruppo diventa sempre più affiatato e sempre più... un gruppo di amici prima e poi un gruppo che fa musica, e penso che sia questo che ci contraddistingue. Insomma, siamo veramente una grande famiglia in associazione con Nuova Famiglia, che unisce la propria passione, e quello che viene fuori il 3 dicembre è frutto solo di passione, quindi è grazie alla condivisione che riusciamo a fare quello che facciamo. Ma infatti si vede anche sul palco che voi siete molto, molto unite. Io poi vi ho visto anche nel backstage, quindi siete proprio veramente unite tra di voi, non c'è una rivalità, siete proprio una per tutti e tutti per una, insomma. Sì, sì, sì, facciamo il tifo una per l'altra. Per esempio ieri sera c'erano i provini dei solisti, sì. E proprio c'era il tifo uno per l'altro, gli applausi, ovviamente veramente si sta molto bene. Vi posso svelare un segreto? Cioè, me lo svelate voi un segreto? I solisti sono gli stessi o c'è qualcuno di nuovo? Adesso. Dovrete venire il 3 dicembre? Io speravo di... C'è qualcuno di nuovo di super solista? Cioè, c'è un ospite nuovo, lo sì, sai, sì, vero questo Agostino? Lo so, sì. Lo vogliamo dire chi è o no? Beh, certo. Verrà il basso batteria vocale, quelli che fanno tutti i tunch tunch con la bocca, dei Swingle Singers. I Swingle Singers sono il gruppo vocale a cappella, secondo me, più famoso al mondo, hanno vinto Grammy, sono veramente grandissimi, e verrà per fare un po' di pezzi con noi. Sarà una bella cosa, secondo me è una cosa che non si è mai vista come minimo a Padova, perché fa un tipo di, chiamiamolo, esercizio vocale che non è molto comune da vedere. Certo. Che bello. Ci sarà anche un po' di tecnologia in mezzo. Vediamo cosa viene fuori. È una cosa abbastanza innovativa, secondo me, per Padova e per il Veneto. Cosa intendi come tecnologia? Qualche marchingegno nuovo? Sì, c'è qualche marchingegno che adesso non posso neanche svelarvi tutto. Che darà che aiuterà, aiuterà nella canzone, esatto, a costruire la canzone, diciamo, certo, così. Certo. Un po' come è successo l'anno scorso, insomma, con il telefonino. L'anno scorso con il telefonino. C'era un telefonino che suonava in mezzo al pubblico. Ah, ok. No, diciamo che non è lo stesso stile. No. Però i marchingegni siamo lì. Sì, siamo lì, siamo lì. Va bene, volete riposare un altro pochino? Facciamo un altro pezzo? Vai. Passiamo a qualcosa di romantico, di dolce. Andato. Che mi dici di Say You Will, Walter? Chissà chi l'avrà scritta questa canzone. Un momento autocelebrativo? È doveroso. L'ascoltiamo, è splendida, ve la consiglio. Ascoltatela veramente, alzate il volume, perché è qualcosa di straordinario. Say You Will, Summertime. Father, we're so glad to be in your spirit. And tonight we want to dedicate this prayer to all your people, to let them know how much you love them, how much you care. Lord Jesus, we just want to stop for a while to say, we want to say we love you, but we really need you this time. Time goes by and it's passing over me. Lord, tell me why people crying in the street. Light in my eyes. Should come over, say you will. I just can't be blind when the world comes to my mind. We need no more words, no, we don't need them. Time is done, and I hear the children cry. The children are crying. They're looking for their mothers, for their fathers. Show me how to fly. Please God, can you come and help us? Rescue me. Listen. Leave your hands and pray. Lord, in my eyes, people with no food to eat. God, tell me why there are still brutalities. Oh, light in my eyes, you show me how to fly. I wish you'd come over. Lord Jesus, you and you up there, we would like to dedicate the song to all those children that got no fathers, that got no mothers, hoping tomorrow the world be a better one, with peace, joy and happiness. Come on, let's pray together. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Io non ho parole per commentare questa canzone, è talmente bella che non c'è verso, insomma. Scritta in che momento, Walter, questa canzone? Ti ricordi? No, se vuoi citare l'anno lo citiamo, se no no. No, sai che non mi ricordo il periodo perfettamente, non mi ricordo assolutamente l'anno, era comunque la fine degli anni 90. Mm. È stato forse il periodo in cui ho scritto di più. Poi ho cominciato a fare l'avvocato. Tristezza. Così per curiosità mia personale, quante canzoni hai scritto che non hai ancora eseguito e lasciate nel cassetto? Ma guarda, di cose che valga la pena riprendere e riarrangiare, onestamente non molte, se devo dire la verità. Anche perché in realtà spero proprio di avere un modo di scrivere anche altro. Adesso ho un'altra età, ho un'altra esperienza, quindi è anche giusto che mi muova in altre direzioni. E certo è che devo smettere di lavorare. E chi non lo farebbe quello? No dai, siccome invece in realtà, scherzi a parte, non smetterei mai di lavorare. Facciamo che se riesco a diminuire di un paio di ore al giorno, forse se quelle due ore le dedico al pianoforte, magari qualcosa di bello nasce. Ecco, e così è in effetti. Anche il nuovo brano che presenteremo è frutto di un momento di tranquillità lavorativa in cui finalmente mi sono seduto al pianoforte e mi sono ricordato che si può anche vivere un momento creativo nonostante si faccia un mestieraccio come il mio. Ma comunque ne hai scritte tante di canzoni tu comunque. No, guarda Agostino, non sono un grandissimo scrittore, ma ho fatto delle cose carine, ma non credo di essere un compositore, lo sono così all'occasione. Mi sento molto più un arrangiatore, se mi devo in qualche modo definire. Quindi mi piace moltissimo riarrangiare le cose e poi, insomma, ripeto, quando viene l'estro, è un momento magico, ma io non me lo aspetto mai, quindi capita all'improvviso. E quando decidete di fare un pezzo, tu dai l'input, gli altri dicono sì, lo facciamo, lo costruiamo assieme, momento dopo momento, istante dopo istante, è così che si costruisce un pezzo nei Summertime. Sì, sì, io quando nei concerti presento i brani che ho scritto io, per rispetto nei confronti di tutti quelli che sono lì sul palco con me, dico sempre che è un nostro brano, perché comunque il brano cresce assieme a noi tutti e quindi ognuno dà il proprio contributo. Io posso avere l'idea iniziale, magari può essere anche una idea precisa, la posso portare fino in fondo, però il brano cresce insieme alla band, insieme al coro, insieme ai solisti. Ogni solista trasforma il brano anno dopo anno. Io mi ritrovo, se riascolto Wait for a Light come l'avevo scritta 20 anni fa, forse la riconosco poco. Quindi i contributi sono sempre di tutti e diventa un brano dei Summertime. Certo, cioè, questa è una garanzia per questo, anche per questo. Proprio sì. Un marchio di fabbrica, possiamo dire così. Sì, speriamo proprio che lo diventi. CC Rogers dice: voi dovete assolutamente fare in modo che a New York tra qualche anno si dica ho fatto un brano dei Summertime, ma non sarete voi a dirlo, ma deve essere qualche coro di Harlem a dire ho fatto un brano dei Summertime. Io lo vedo come un sogno incredibile, sinceramente. Probabilmente anche Sissi quando dice queste cose lo dice perché ci vuole creare un sogno, però io vivo di questo e quindi questo è il sogno che voglio portare avanti. Bene, c'è anche Valentina all'ascolto, la saluto, una cara amica, Valentina vostra. Valentina vostra. Ah, ciao Valentina. Ciao Vale. Ciao Vale. E salute. Ciao Raffa, immagino. E ciao Raffa, sì, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Allora, dobbiamo congedare il boss, il direttore, Walter, dobbiamo congedare Walter. Sì, vero? adesso scappo non via. Perché ti voglio mandare via, ma so che c'hai... Scappo a fare le prove, vado probabilmente a raggiungere Valentina e Raffaele, perché sono sicuro che adesso anche loro partiranno per venire alle prove. Sai come si chiama Valentina di cognome, vero? Sì, sì, sì. Come si fa a chiamarsi amore di cognome? Beh, insomma, è un amore di ragazza, quindi. Sì. Cioè, lei secondo me veramente dovrebbe ringraziare giorno dopo giorno. E poi noi abbiamo un particolare ricordo di Valentina, perché è venuta qui su nostra espressa richiesta, ovviamente, a regalarci un'ora e mezza di musiche da cartoni animati, e ha fatto una serata splendida assieme a Raff e assieme anche a una coppia di amici suoi. È stata una serata divertentissima, era carnevale, ci siamo divertiti tanto, te lo ricordi, Maurizio? Certamente, Cristina D'Avena rifatta, riveduta e corretta. Un senso molto positivo, secondo me. Abbiamo avuto una bella anche serata, anche se unite su Cristina D'Avena decisamente, però quella sera le ragazze erano riveduta e corretta il discorso, hanno impostato i cartoni animati a loro volontà. Allora, questa è una cosa bellissima e molto divertente. Bene, allora saluto tutti, saluto voi, vi ringrazio come sempre di averci dato questo spazio così familiare, quindi la solita nostra bellissima chiacchierata in famiglia, e ci troveremo di nuovo in famiglia anche il 3 dicembre. Io chiedo veramente che questo concerto ancora una volta diventi ancora di più la festa della città di Padova, e quindi voglio vedere Padova negli occhi, certo. Va bene? E la vedrai, te lo garantisco che la vedrai. Ma non ci sarà solo Padova, sarà anche un po' fuori, eh? Molta gente, ho visto che vi ha scritto che poi arriverà da fuori. Sì, mi pare di capire di sì. Sì, ho visto. Io ho anche sentito da Ancona, da Vercelli. Sì, ci sono anche alcuni cuori che vengono, che fanno i pullman per venire tutti insieme. C'è addirittura qualcuno che a Cervarese Santa Croce ha organizzato un pullman. Sì, tipo Gita Gardaland, Gita al concerto di Sam. Hanno attaccato delle locandine, ci si trova quel giorno, quell'ora, venite. Beh, bellissimo. Grazie a tutti, veramente, di ciao, cuore. Walter, ci vediamo, ci vediamo presto. Ci vediamo presto, ciao, grazie. Chiara. Allora, Ago. Come stai? Beh, bene, dai. Sei un po' agitata, sta arrivando. Ma no, non ancora. Ti devo dire, l'anno scorso a quest'ora ero sull'orlo di una crisi isterica. Chi mi era vicino lo sa bene, sia per l'organizzazione che per l'agitazione per il concerto in sé. Quest'anno siamo partiti, non lo so, siamo partiti più... Forse prima, non so, forse è stato quello il trucco. Siamo molto più tranquilli, secondo me. Un po' che non vuol dire... Anche più esperti. Che non vuol dire che ci abbiamo messo meno impegno, però l'abbiamo fatto un po' più con spirito propositivo invece che isterico, ecco. No, comunque siamo tranquilli anche alle prove, non siamo ancora agitati da pre-show. Probabilmente la settimana prossima cominceremo a tremare, ma per il momento andiamo bene. Ma l'emozione è sempre importante per fare una cosa. Se non c'è emozione non si fa mai una cosa bene, secondo me. Beh, assolutamente. L'emozione, ci vuole quello. Ma tanto più se la devi trasmettere, l'emozione, quando canti. Quindi fare l'attore quando si canta non va bene, perché non è vero che esprimi. Devi sentirlo dentro quello che canti. Soprattutto cantando canzoni come quelle che abbiamo appena sentito, sia perché sono nostre, mi permetto di dire, e sia perché hanno un testo molto sentito, per cui lo sentiamo veramente e lo cantiamo col cuore, sia chi è solista e anche chi è nel coro. Veramente a me è capitato l'anno scorso quando cantava Sissi, quando cantava If Not For Your Grace, che è la canzone su cui si è emozionato anche lui, di non riuscire ad arrivare alla fine perché stavo piangendo anch'io e non ero sicuramente l'unica all'interno del coro. No. Quindi l'emozione ci traina, come dicevo prima, la passione e l'emozione ci traina a fare tutte queste cose. Ma cosa quando ti tocca, tra virgolette, tocca a te cantare, cosa pensi in quel momento? Oddio, adesso sbaglio oppure... Allora, io ho la salivazione azzerata, le gambe che mi tremano, non capisco più, ho momenti di appannamento della vista, fino a che non prendo il microfono in mano. E quando prendo il microfono in mano è straordinario, sparisce tutto. È impressionante. No, te lo dico perché l'anno scorso, al concerto l'anno scorso, avevate 4.000 persone. Eh sì. Ma in Prato della Valle quest'anno ce n'hanno 30.000. Eh sì, infatti. Ce n'hanno 30.000. Dicono 30, qualcuno dice anche di più. Non vabbè, voglio diciamo, saperlo. Diciamo 30.000. Cosa, tu sei, hai camminato nella passerella lì. Esatto. Insomma, cosa, cioè, davanti a tutta questa... Metà Padova, insomma, un po' di Padova sì, c'è. Sì, cioè, zero. Zero nel senso positivo. Cioè, non ero agitata... in maniera paurosa, ero emozionata, in non ero agitata. Paurosa. Che bello, che meraviglia poi cantare così. Eravate sì, poi... cioè è stata una cosa enorme, perché 30.000 persone davanti lì... Che tra l'altro eravate gli unici a cantare dal vivo, se non sbaglio. Questo non te lo so dire, noi di sicuro abbiamo cantato voci. E suonato dal vivo, gli altri non lo so. Voci di corridoio. Agostino lo sa, Agostino ha fatto le sue indagini, Agostino è... Per... Agostino... Quando dice una cosa si documenta. Voci, sì, sì, noi tutto live. Voci hanno detto che tutti, come tutti le grandi, come tutte le grandi manifestazioni, insomma, spesso e volentieri sono in playback. Purtroppo sì, capita, però il playback esigenze rovina televisive. Sempre le cose, c'è poco da fare. Qui, qua dentro, adesso, visto che parliamo di radio, qua dentro il playback non esiste. No, no, è no. Tutto assolutamente dal vivo, è come dovrebbe essere un coro come il vostro, non può cantare in playback, deve cantare dal vivo. Certo, ma come deve essere la musica? Certo, la musica deve essere sempre dal vivo e basta, c'è poco da fare. La musica è live. Giampaolo, sì. Ci sei? Eccomi. Allora, raccontaci un po' questa collaborazione. Cioè, voglio dire, da cosa nasce questa voglia di continuare con questa band, insomma? Ma da dove nasce? Beh, ti devo raccontare intanto com'è nata, perché forse sì, non forse tutti è lo meglio. Sanno. Sì, giusto. Allora, è nata a un battesimo, tu pensa... E in cui con Walter ci siamo incontrati, il battesimo di una bambina. Lui so che se si sta ascoltando in radio adesso in macchina, so che gli piace sempre quando ricordiamo quel momento, appunto, perché non è un caso che il battesimo di questa bambina abbia portato a fare nascere questa idea. E a noi piaceva l'idea di avere un momento musicale per portare più persone possibili vicino all'associazione. Non strettamente per fare proseliti, ma proprio perché quando si hanno volontari e voglia di fare, è bello condividerla. È la rete che crea la forza. L'unione fa la forza, ma in questo caso, nel caso delle associazioni, sono proprio le reti, persone che portano persone che si entusiasmano, persone che sentono parlare di qualche cosa che si è fatto e loro a loro volta trovano voglia di fare la stessa cosa. Anch'io ho conosciuto la nuova famiglia perché qualcuno me ne ha parlato, non l'ho vista sul catalogo delle associazioni. Ma non l'hai anche fondata oltre a essere il presidente? No, non è... Allora, lo sei presidente? No, ha detto che non è il presidente. Mi prende come un vecchione, chiaro. Non sei ancora il presidente, hai detto. Beh, no, scusa, no, guarda, no. Che Walter è dentro i Summertime da quando sono nati. Sì, vabbè, ma... Quindi siamo lì. Vent'anni e vent'anni di storia. No, credo sia arrivato un po' dopo, Walter, mi sembra. Forse sei mesi. Già. Da quello che racconta. Un po' dopo, sai. Walter, fai uno squillo e rispondi. Levaci questo dubbio. Beh, insomma, e qui lì è partita, ecco, l'idea di avere questo momento perché qualcun altro cominciasse a conoscersi e entrasse così nella voglia di organizzare, nella voglia di dare una mano, di mettersi... Sai quanta gente dà una mano a questo evento? Un numero veramente incredibile di persone, da chi fa un sito, a chi si mette al bar, a chi si mette a portare sedie, a chi si mette a dare via volantini. Cioè, veramente, ecco, questo è il bello. E tante persone hanno trovato anche un modo per entusiasmarsi, per avere in questo periodo una occasione per tirare fuori il meglio di sé attorno a questa sfida. Ecco, lì è nata l'idea. I Summertime avevano forse la sensibilità di fare un concerto con qualcuno che non fosse un organizzatore di concerti. Ecco, posso dire questo, sto guardando Chiara, ma con qualcuno che interpretasse anche quel desiderio che loro avevano innato di fare qualcosa di servizio per il prossimo, di mettere la loro musica a servizio. Ed è stato bellissimo unirci allora a quel punto lì con la prima cosa di il primo evento a Mestre, al Taliercio, fortemente voluto dal Comune di Venezia, e poi portati e poi ci siamo riportati a Padova, perché nel frattempo il Palasport era in ristrutturazione nel San Lazzaro e adesso è diventata la nostra casa. Anzi, veramente un grande ringraziamento sia alla Pallavolo Padova che al Comune di Padova, perché in tutti i modi ci hanno cercato di aiutare perché quella diventasse la casa della nostra serata. E la particolarità di questo concerto, Chiara, è il concerto verde. Lo vuoi spiegare il perché del concerto verde? Sì, allora abbiamo assoldato, diciamo, un team di esperti. Non so la definizione vera, Giampaolo può aiutarmi. Come li possiamo definire? Tecnici, ambientali? Ambientali, ecco. Beh sì, sono dei volontari anche loro per la nostra associazione che hanno fondato uno studio di consulenza ambientale, che fanno ricerche e consulenze nel campo delle energie alternative, in questo caso appunto dell'anidride carbonica che abbiamo. Continuo io a questo punto. Vai. tecnico è lui, diciamo. Hanno proposto questo. Mm-hmm. E siccome in associazione chi ha qualcosa da dare la dà e non deve tanto chiedere il permesso agli altri, perché in associazione chi porta, porta e chi deve prendere, prende, e questo è il bello, l'abbiamo accettato volentieri. E uno studio, abbiamo studiato tutto l'impatto ambientale che questo concerto porterà in termini di emissione di CO2 e anche per quanto riguarda rifiuti, eccetera. Stanno facendo proprio il calcolo ormai quasi pronto, e tutto ciò che sarà prodotto verrà compensato impiantando alberi in Etiopia, anzi proprio a Dakuna, lì dove sorgerà quella casa di accoglienza che con questo concerto vorremmo iniziare a costruire. E lì vicino, ecco, faremo anche questo impianto di alberi in modo tale che nulla venga sottratto a questo pianeta, anche per questo evento che è un evento di solidarietà. Penso che pianteremo eucalipti, anche se oppure jacaranda, però bisogna sempre parlare con i capi villaggio, perché non si può impiantare quello che vuoi tu, ma giustamente si vedrà che cosa anche lì va bene come albero che vogliamo portare per recuperare questo impatto. Insomma, non vogliamo lasciare tracce negative del nostro passaggio. È stata una bella idea, un'idea decisamente diversa dalle solite. Adesso in tempo di ecologia è giusto tirarla fuori. È stata una cosa molto interessante, secondo me. Sì, ringrazio veramente Sergio, Michele e Massimo, che sono i nostri amici che hanno proposto questa cosa, e che veramente, ecco, anche loro lì gratis praticamente, insomma, e via a dare ciascuno una mano. Certo. Va bene, facciamo un altro break adesso. Chiara, io cosa posso, ci fai ascoltare adesso? Posso toccare il cielo? Oh, vai. Ti piace? Tu lo puoi toccare, lo posso toccare anch'io. Ecco, lo tocchiamo. La canzone si chiama? You Can Touch the Sky o I Can Touch the Sky, a seconda della versione. I Can Touch the Sky. Brothers and sisters, once you have really striven for and it finally touches your life, the Christ spirit of brotherly love effectively dissolves envy, hatred, jealousy, and all those difficult problems like them into nothing. In the light of love, these seemingly powerful negatives now become powerless, or fade away or disappear. Fears fade, rivalries diminish, prejudice, pettiness, and other stupid behaviors that burdened or pained you now fall from you and you are free. Hallelujah. It may not happen overnight, but I'm here to tell you the sacrifices the Christ Spirit calls for do bring you the clear blue sky days you've longed for and striven for with all your heart. And they do make you feel like you touched the sky. Let the church say amen. from the sky. You save us from hatred, power. Lord, with your heavy cross, you save us from fear. Jesus Christ, and you rose again. You are with us, and we can touch the sky and say, oh, amen. SMS 346 2320 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 22 passate da 5 minuti di questo giovedì 24 novembre 2011. Siamo a pochissimi giorni dal concerto. Abbiamo questa rappresentanza per quanto riguarda questa band, questo coro, meglio dire, con Chiara, che è la presidentessa, e con il nostro Giampaolo, che è Pecolo, che fa parte dell'associazione Nuova Famiglia. Abbiamo comunque i Summertime, carissimi amici, come dicevo all'inizio. Insomma, io sono molto affezionato a voi, è vero Chiara? Lo sai? Lo sappiamo. Tu sei sempre gentilissimo, ci inviti dappertutto, vieni sempre ai nostri concerti, vieni nei backstage. Ormai sei proprio nostro amico, anche noi siamo tuoi amici, ma anche tu sei nostro amico, ecco. Sei gentilissimo anche tu. Io ci vengo sempre volentieri, perché riuscite sempre comunque ad emozionarmi. Poi è sempre un continuo scoprire cose nuove. Io ne ho visti tantissimi di vostri concerti, ma c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, da capire, insomma. E questo mi fa molto Sei il capo onorario del nostro fan club. Ecco, sì. Grazie, questo non lo sapevo. Ti ho appena letto. Grazie. Appunto, un imprimatur secco in questo momento. In diretta momento. Così, grazie. Ho deciso. Stunk. Allora. C'è sempre questa colorazione soul in tutti i pezzi, o quasi, vero Chiara? Almeno in questo soul, era gospel, proprio... R&B. Diciamo che proveniamo ovviamente come natura dalla musica nera. Esatto, dalla musica americana, esatto. Quindi si fondono insieme soul, R&B, gospel, un po' di pop, un po' di funk. Tante influenze, tanti musicisti, tanti cantanti, tanti compositori e di tante epoche, soprattutto perché nella storia di Summertime partiamo dal gospel classico, diciamo, quindi Happy Day, Wade in the Water, tutte quelle cose lì. Poi ci stacchiamo un pochino e arriviamo al gospel contemporaneo, quindi siamo influenzati da molta musica, da molte epoche della musica, per carità, moderna, ma diversi stili, ecco. Beh, attingete da Kirk Franklin. Beh, Kirk Franklin è un nostro padre, come dire, una fonte, esatto, fonte di ispirazione continua tra lui, Israel Houghton, Kirk Carr, Richard Smallwood, insomma. Io quest'anno c'è anche qualche autore nuovo, oltre agli attori originali che sono nostri, Summertime, c'è anche qualche autore nuovo nel panorama internazionale. Io ogni tanto vado su YouTube a vedermi qualcosa di Kirk Franklin, perché quando fa, quando ho cantato a Londra nella come si chiama quel grande teatro dove è andato a Chetozzi, mi ricordo più. Sì, hai capito? Sì, ho capito. Non mi ricordo più. C'è andato a Chetozzi, sì, effettivamente. C'è andato a Chetozzi. Sì. E ci andremo anche noi, dai. Perché Agostino si ricorda il doppio album di Tozzi, bravo, dal vivo, e la copertina. Bravissimo. La mia memoria non è molto efficace adesso. Beh, comunque, dicevo, okay. Quando ha fatto quel concerto lì, ha fatto di quei pezzi dal vivo che era una cosa eccezionale. Beh, ma penso, io non l'ho ancora visto, io ho visto solo Kirk Carr. Penso che vedere un mostro sacro del genere sia ispirante in maniera, tra l'altro anche soprattutto per quello che dicono le canzoni, perché il gospel è preghiera, quindi deve essere toccante, certo, nel profondo. E se ti capitasse di cantare con lui, cosa faresti? No, vabbè, ok. Beh, però ho ballato con Kirk Carr, se posso, dai, dirlo. Su, sì. Serio? Ah, ecco, questo non lo sapevo. Ecco, ti rifilo un altro aneddoto. Siamo andati a vedere con una delegazione Summertime Kirk Carr al Novara Gospel Festival l'anno scorso. E alla fine dello spettacolo di Kirk Carr ha invitato chi volesse sul palco a ballare con lui, a cantare That's What Friends Are For. E io ero nei palchetti laterali, quindi non avevo accesso diretto al palco. Insomma, ho scavalcato, ho fatto il salto della buca dell'orchestra e sono arrivata sul palco con Kirk Carr per ballare. Mi ha visto la security e mi ha detto: ti buttiamo fuori. Ecco, ma sei riuscita. E invece non ce l'hanno fatta, sono andata sul palco a ballare con Kirk Carr. Questa è una grande soddisfazione. Ti hanno filmato, almeno ti tieni. Sì, sì, sì, c'è il video, c'è anche la foto. Ecco. Andrò a vedere allora. Sì, sì, te la faccio vedere. Sì, non sapevo questo. Vuol dire la forza della musica, al di là della security, al di là delle barriere, si superano le barriere. Assolutamente sì. È capitato anche a noi una volta che nel Teatro Comunale di Vicenza un fan, scavalcasse le barriere che c'erano davanti al palco e venisse sopra al palco praticamente a condurre lo show, impazzito, in maniera buona ovviamente, è molto trascinato dallo show, è arrivato sul palco anche lì la security, ha fatto delle facce. Diciamo che proprio, ritorno sul discorso di prima, della passione, perché è veramente il leitmotiv di questa cosa, e poi il tipo di cose che stiamo cantando che trasporta in maniera impressionante. Certo. Beh, insomma, Kirk Carr è quello che ha fatto Forever Mountain, esatto. No One Else, alla faccia, cioè voglio dire, pezzi straordinari, insomma, quindi per chi conosce il gospel ovviamente e per chi segue il Summertime sono delle loro, come dire, cavalli di battaglia sì, certo. Che però non facciamo più perché sono andati in pensione, diciamo. Beh, è giusto, c'è sempre un ricarico generazionale, giusto? Esatto, esatto, ci rinfreschiamo ogni tanto. Mi sembra giusto, anche perché appunto danno spunti nuovi, giusto? Certo, ma io chiaramente io non sono un esperto di questo campo, però a me piace sentire, a me piace scovare, a me piace andare dentro le cose. Questa è una cosa che dovresti però... faremo anche quello... Tu dovresti venire con me quando ci sono loro. Ecco, sì, può darsi, può capitare sicuramente. Possiamo fare una domanda a Giampaolo? Musicalmente, insomma, di dove ti piace? Dove ti sei fermato? Dove sei sentito così? Sono interessanti musicalmente parlando. Dove, quello che ti ha fatto, come si dice, la scintilla, ecco, musicale. Beh, è chiaro che siamo anche noi dei fan, altrimenti no, certo, altrimenti non ci sarebbe la chimica che ci tiene in... Va bene, dai, ti eleggo vice capo del fan club. Ecco, sono già degradato da presidente dell'associazione a vice. Guarda capo, che capo sono io adesso. Hai visto in Italia la gloria sta presto a cambiare. Sic transit gloria mundi, ha detto quello pochi giorni fa, no? È proprio vero. E beh, io devo dire, sono uno che piace le atmosfere riflessive, quindi io sarei, ma penso anche tanti altri, noi saremmo un pochino per la prima parte del concerto. Del concerto. È lì che un pochino ci sciogliamo. La seconda è un po' più vivace. La seconda però, quando è più vivace, ci fa più sentire il senso della festa. Ecco. E allora sarei un po' perplesso, devo dire. Ah. Ecco, dipende dal momento. Se fossi in questo momento così, in un'atmosfera calma, tranquilla, soffusa come questa qua, che stiamo adesso vivendo insieme, ecco sì, sono un po' da melodie calde, da toni riflessivi e da parole sommesse. Poi so che al Palasport, però, dopo un po' comincerei anche un po' a rompermi anch'io. Allora ci vuole la seconda parte, certo. Come sapientemente loro ci propongono. E allora lì poi è un crescendo. È festa, è un crescendo. Sì. Il crescendo ci deve essere, poi quando si arriva a un certo punto bisogna scatenare. Quindi. Sì, sì, ci si scatena e noi non abbiamo tanta security. Per cui non ci sono problemi. Spero che tutti stiano calmi, che stiano bene al loro posto. No, anzi, insomma. Per cui tutti in piedi a battere le mani, che tanto nessuno vi dice niente. Ecco lì al limite. Però appunto ci piace vedere la gente e noi stessi che si lasciano andare, perché poi è quello anche che tra l'altro fa venire la voglia di ritrovarsi subito. Quando è il prossimo? Quando ci si ritrova? Ma aspettiamo un anno adesso? Sì, infatti ormai è già tempo di pensare al prossimo, no? Mi sembra, non lo so, non mi sento arrivata. Ma dal prossimo, dai, non ne parliamo Agostino adesso. Ci darai un altro appuntamento per questa primavera, sì, parleremo, sì, del prossimo. Vabbè, io vi faccio fare un po' di pausa e poi arriviamo alla parte finale, va bene? Sono le 22:14. Io direi, Chiara, se tu sei d'accordo con me, di far ascoltare un po' una delle canzoni che è un po' un simbolo del gospel, cioè Osanna. Ah, bene, bene, che molta energica questa. Che è energica, esatto, quindi visto che il treno dell'energia sta per arrivare a Padova, saliamo tutti. Saliamo. Sì, può capitare, cioè anche qualche volta capita che ci sono i CD che, essendo un CD, una volta, sai, quando i vecchi DJ avevano dei problemi quando mettevano la puntina, qualche volta capita, fa parte del live, fa parte della radio, fa parte degli inconvenienti della diretta, non c'è niente da fare. Vero Agostino, è proprio così. Sono così, sono pienamente d'accordo con te. Vediamo di sistemare. Di sistemare la faccenda. Per questo che bisogna comprare i CD originali. Ma quello è originale. Ovviamente, certo, lo sapevo, ma era per esortare il pubblico a comprare i CD originali. Parliamo di questo pezzo, di questo brano. Giampaolo diceva una cosa molto interessante a microfono spento, anche se poi abbiamo aperto il microfono per motivo tecnico. No, questo che stiamo ascoltando è il CD dal vivo, no? Che abbiamo si chiama Live in Venice, è la registrazione del primo concerto che abbiamo fatto a Mestre. Quella a Mestre è famosa. E questa è la prima canzone del primo concerto che abbiamo fatto insieme. E mi ricordo esattamente dov'è quel momento, cioè era uno stress altissimo, chiaramente, però la soddisfazione che finalmente in quel momento tutto era partito. E mi ricordo che insieme a Michele Luise, che saluto se ci ascolta, che si occupa, un altro volontario dell'associazione fortissimo sulla parte tecnica, si occupa di tutta la logistica dell'evento, ecco, siamo andati proprio a festeggiare distendendoci distendendoci negli spogliatoi del Palasport, proprio per avere quel momento di dire ecco, abbiamo fatto, tutto è partito, adesso chissà che vada tutto bene. È stata la nostra, il nostro battesimo del fuoco, e adesso ogni volta che sento queste note partire mi ricordo quel momento proprio quasi liberatorio. Ma è sempre un momento liberatorio quando si ascolta una certa canzone, comunque, vero? Eh sì, insomma, io finora non avrei mai pensato che ci saremmo trovati nella parte degli organizzatori di concerti, di eventi musicali, per cui prima ero semplicemente un fan, un ascoltatore, non mi posso definire un musicofilo, ma credo che non ci sia una particolare spiccata passione musicale in nessuno all'interno dell'associazione, anche se devo dire che avevamo già fatto un'esperienza, perché avevamo organizzato un concerto con i Nomadi, sempre di beneficenza, che andò molto bene e ci permise di fare un pochino così le prove generali per poi accogliere i grandi Summertime ed andò bene, ecco, ma noi eravamo per ecco, più che altro per la parte, per stare dalla parte del pubblico, certo. Ritrovarci tra quelli che hanno anche in mano un po' il pallino dell'organizzazione è stato un bel salto. Dai che proviamo a vedere. Proviamo dai. Yes, come on. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Beh, ti bastava una pulitina e tutto il sistema. Sì. E le vecchie cose si facevano da DJ. Tu che sei stato un DJ un po' di tempo fa in un'altra radio, così si sistemava le cose. Speaker si dice, no? DJ. Beh, speaker, va bene, speaker. Adesso si chiama DJ, una volta si chiamava speaker. Va bene, va bene. Okay. A me si è concesso. Ok. Due domande, una per ciascuno. Gianpaolo, se qualcuno volesse avere informazioni sulla tua associazione, lì al concerto può trovare banchetti, qualcosa che offrite? Beh, voi? Certo. Eh certo, come no, sì sì, siamo lì, a parte con il nostro stand per parlare di noi, abbiamo anche un po' di prodotti dell'artigianato, abbiamo poi la t-shirt del concerto che adesso non ci facciamo mancare da due anni. Io ce l'ho anni. Già, sì sì. Hai anche quella nuova? No, quella, ah? quella dell'anno scorso, quella nuova me la no, dico, non ce l'ho neanche io, non ho capito. Ma Gianpaolo poi me la dà. Quindi questo, e poi per dare materiali su di noi, oppure il sito nuovafamiglia.it, lì si parla dei nostri progetti. Abbiamo sempre citato Etiopia, anche questo concerto va per la costruzione di una casa di accoglienza in Etiopia. È il paese dove siamo più presenti storicamente, ma in realtà ormai siamo in diversi altri paesi africani. Parte adesso un gruppo di volontari per Guinea-Bissau, proprio a cavallo del Capodanno, tra l'altro, saranno via. E Uganda, ci stiamo veramente allargando anche su altri paesi, Madagascar e in America Latina, quindi anche in tante altre cose. Quindi anche questo stand, caro Agostino, diventa sempre più grande, perché dobbiamo accogliere sempre più prodotti e più tracce, ecco, del mondo in cui siamo presenti. È giusto. Quindi un invito anche a venirvi a trovare lì al palazzetto. Chiara, invece, per te, se qualcuno volesse acquistare i vostri dischi. Allora, i nostri dischi possono fare richiesta sul nostro sito www.summertimechoir.com, scritto choir, scritto coir, choir, è un po' difficile, oppure possono mandarci una mail info@summertimechoir.com, oppure possono venire direttamente il 3 dicembre, dove avremo anche noi un banchetto con i nostri CD. C'è anche qualche maglietta, cappellini, cose varie? C'è tutto, è un banchetto unito a Nuova Famiglia, per cui i nostri CD insieme ai prodotti dell'artigianato, insieme alle magliette, insieme ai calendari in collaborazione Nuova Famiglia e Summertime. Quindi portatevi via il portafoglio pieno, che c'è da acquistare tanta roba, va bene? Più che altro per beneficenza. Sì, certo. Puntate a mettere i classici 2 euro di cui si parla sempre alla fine per il costo del bis. Certo. Puntate ai 2 euro da mettere nella scatolina alla fine. Gianpaolo, io ti auguro un in bocca al lupo per la tua associazione. Grazie, in bocca al lupo a voi. Continuate a fare questo bellissimo servizio, che questa non è un, è un momento veramente, è un salotto. Beh, noi ringraziamo voi che ci avete dato questa esclusiva, praticamente, che venite, insomma, l'unica radio a Padova che vi trasmette, che vi dà questa possibilità, quindi è una grande soddisfazione. Grazie mille. Faremo di meglio, sempre di meglio. Chiara, a te ovviamente in bocca al lupo per il concerto. Crepi il lupo, grazie. Ti auguro che sia bellissimo come quello dell'anno scorso. Grazie. Spacca tutto, come si suol dire, giusto? Tutti spacchiamo tutto. Siamo in 35 coristi, più 6 musicisti, più ballerini, più tecnici. Dobbiamo ringraziare un sacco di persone. Insieme spacchiamo tutto. Allora, aspettiamo tutte quante le persone che vogliono venire. Possiamo solo ricordare dove si possono acquistare i biglietti? Assolutamente sì. Allora, o presso l'associazione Nuova Famiglia Casale di Selvazzano, trovate i contatti su nuovafamiglia.it, oppure presso l'associazione Summertime, siamo a Peraga di Vigonza, i contatti sempre su summertimechoir.com, oppure mi mandate una mail alla mail di prima. Poi ci sono punti vendita in giro per la città che trovate sempre nei nostri siti, chiedeteci anche su Facebook, diventate fan su Facebook, seguiteci su Twitter, iscrivetevi alla nostra newsletter, tutto questo serve anche per comprare i nostri biglietti. Io sono il capo fans. Esatto. Ce ne sono veramente per tutte le tasche, dai 15 euro ai 35 euro, per cui chiunque può venire a vedere il nostro concerto, abbiamo anche i biglietti, come dire, popolari. Certo. Dobbiamo riempire il palazzetto, forza. Non abbiamo detto dall'ora dell'apertura del concerto? Alle 21 ci sarà il concerto, il 3 dicembre al Palafabris del Summertime. In bocca al lupo allora a te, Chiara. Crepi ancora, e a te, grazie. Gianpaolo. Maurizio, grazie. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Sì, giovedì prossimo abbiamo un appuntamento particolare. Molto particolare. Che puoi citare, giustamente. Sì, si chiama Gianluca Fantelli, è un cantante stupendo, bravissimo. E sta lottando con una malattia, la SLA, che è una malattia che degenera un po' le cellule. Però lui ha la forza di continuare a cantare e ci canta le sue canzoni. È un po', la voce non è proprio perfetta perché appunto c'è questo problema, però vi posso garantire che il disco è bellissimo, quindi vi invito a tutti all'ascolto giovedì prossimo dalle 21 alle 22:30 con Gianluca Fantelli, e ci sarà anche Alberto Despini che farà da secondo chitarrista, il suo manager, certo, che ha scritto quasi tutti i pezzi del suo album. Ci salutiamo con una preghiera grande. Beh, è l'inno del gospel probabilmente moderno. Total Praise. Total Praise. Ciao Chiara, un bacio. Grazie Ago, ciao. Ciao Maurizio, ciao Gianpaolo. Ciao, ciao, grazie a voi. Alla prossima, ciao.